Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Sua Altezza la principessa Olivia era molto appassionata al gioco. Me ne potei accorgere quella mezza dozzina di volte che tenemmo il banco a corte. E potevo vedere molto di più, anzi, lo vedeva il mio vecchio zio con la sua attenzione imperturbabile. C'era un'evidente intesa tra Monsieur de Magny e quell'illustre signora. «Se Sua Altezza non è innamorata del francesino, mi disse mio zio una notte dopo il gioco, possa io perdere la vista dell'unico occhio che mi è rimasto!» «E a noi che ce ne importa, signore?» dissi io. «Che ce ne importa?» disse mio zio, scrutandomi in volto. «Sei tanto ingenuo da non capire quanto ce ne importa? La tua fortuna è fatta se sai starci dietro ora. Potremmo riavere le terre dei Berry entro 2 anni, ragazzo mio!» «E come?» chiese ancora confuso. Mio zio disse in tono asciutto. «Fai in modo che Magny giochi. Al diavolo i pagamenti. Accetta le sue cambiali. Più ci deve, meglio è. Ma soprattutto fallo giocare.» Dunque dovevo far giocare Magny. Fin qui non c'erano grandi difficoltà. Esisteva già una certa intimità tra di noi, perché lui era un bravo cacciatore come me. Ma col tempo arrivammo ad avere un'amicizia davvero piuttosto intima, e se vedeva un bussolotto era impossibile impedirgli di metterci le mani sopra. Il gioco gli piaceva distinto, come i dolci ad un bambino. All'inizio era lui a vincere, poi cominciò a perdere. Poi io giocai denaro contro certi gioielli che lui aveva portato con sé. «Ninnoli di famiglia», mi disse, «ma certamente di valore considerevole. Mi pregò tuttavia di non venderli nel ducato, e io diedi la mia parola d'onore su questo punto, e la mantenni. Dai gioielli passò a giocarsi le cambiali, e dato che non poteva giocare a credito, ai tavoli di corte o in pubblico, fu molto contento di avere modo di indulgere in privato alla sua passione preferita. La fortuna si accanì tanto contro di lui che mi venne debitore di una somma prodigiosa. Non sto a dire l'ammontare esatto. Ero certo che una cifra così il giovanotto non avrebbe mai potuto pagarla. Ma allora perché avevo giocato per vincerla? Perché sprecare le giornate giocando in privato con un fallito, quando c'erano affari in apparenza molto più proficui da fare altrove? Un motivo l'avevo, e ve lo confesso senza giri di parole. Volevo vincere a Monsieur de Magny non il suo denaro, ma la sua promessa sposa, la contessa Ida. Chi può dire che non avessi il diritto di usare qualsiasi stratagemma in una questione d'amore? E perché poi dire amore? Volevo le ricchezze di quella donna. L'amavo tanto quanto l'amava Magny. Nel mio amore seguivo le consuetudini del mondo. Avevo già stabilito che il matrimonio serviva a consolidare la mia fortuna. Quando Magny perdeva, gli facevo dare una lettera in cui riconosceva amichevolmente il debito, più o meno in questa forma: «Caro Monsieur de Balibarry, riconosco di aver perso oggi con voi a Zecchinetta la somma di 300 ducati e considererò come una grande cortesia da parte vostra consentirmi di sospendere il debito fino al giorno in cui ne riceverete il pagamento dal vostro gratissimo e umile servitore.» Quanto ai gioielli che mi portava, presi la precauzione, questa in realtà fu un'idea di mio zio e anche ottima, di farmi fare da lui una specie di inventario dei valori, insieme a una lettera in cui mi pregava di ricevere quei gioiellini in pagamento di una data parte della somma che mi doveva. Quando l'ebbi spinto in una posizione che mi pareva propizia ai miei scopi, gli parlai con franchezza e senza alcuna riserva, come si fa tra uomini di mondo. «Mio caro amico», gli dissi, «non vi farò il pessimo complimento di supporvi capace di credere che noi possiamo continuare ancora a lungo a giocare in questo modo e che io provi qualche soddisfazione a possedere un numero più o meno grande di pezzi di carta con la vostra firma e una serie di cambiali che so che non potrete mai pagare. No, non fate la faccia feroce, non vi infuriate. Sapete bene che Redmond Barry con la spada può farvi da maestro. E poi non sarei tanto sciocco da battermi con un uomo che mi deve tanto denaro. Invece ascoltate con calma quello che ho da propormi. Data l'intimità che si è stabilita tra di noi, nell'ultimo mese voi mi avete fatto molte confidenze. Ora conosco i vostri affari personali a menadito. Vi siete impegnato con vostro nonno di non giocare mai sulla parola e sapete bene come avete mantenuto l'impegno. E sapete anche che se viene a sapere la verità, vi diserederà. Ma supponiamo pure che muoia domani. Il suo patrimonio non è sufficiente a pagare la somma che mi dovete. E poi, se me lo consegnaste per intero, sareste ridotto a chiedere l'elemosina e in più con una nomea di fallito. Sua Altezza la principessa Olivia non vi nega nulla. Non vi chiederò perché. Lasciatemi solo dire che ero al corrente del fatto quando abbiamo iniziato a giocare. Volete essere fatto barone o ciambellano con il gran cordone dell'ordine? Balbettò il pover'uomo. La principessa può tutto sul duca. Non ho alcuna obiezione, dissi, contro il nastro giallo e la chiave d'oro, per quanto un gentiluomo della casa di Belli Berry poco importi dei titoli della nobiltà tedesca. Ma non è questo che voglio. Mio caro cavaliere, mi avete detto con quanta difficoltà avete indotto la principessa Olivia ad acconsentire al progetto della vostra unione con la contessa Ida, che non amate. So ben io chi è quella che amate. Monsieur de Balibari, disse il cavaliere sconcertato. Non riuscii a dire una parola di più. Vedo che iniziate a capire, continuai. Sua Altezza la principessa, lo dissi in tono sarcastico, non sarà molto irritata, credetemi, se voi rompete la vostra relazione con la contessa stupida. Io non sono un ammiratore di quella signorina più di quanto non lo siate voi, ma voglio il suo patrimonio. È per vincerlo che ho giocato con voi, e l'ho vinto. Vi darò le vostre cambiali e altri 5.000 ducati il giorno in cui sposerò quel patrimonio. Il giorno in cui io sposerò la contessa, rispose il cavaliere, pensando di averne in pugno. Potrò raccogliere abbastanza denaro da pagare 10 volte ciò che mi chiedete, e allora soddisferò i miei obblighi verso di voi. Nel frattempo, se mi infastidite con le vostre minacce o mi insultate come avete fatto ora, farò uso di quell'influenza che, come dite, possiedo e vi farò cacciare via dal ducato. Suonai con tutta calma la campanella. Zamor, dissi a un negro molto alto, vestito da turco, che era allora al mio servizio. Quando senti suonare la campanella di nuovo, porta questo plico al maresciallo di corte, questo a Sua Eccellenza il generale de Magny, e quest'altro lo darai personalmente a uno dei marescalchi di Sua Altezza, il principe ereditario. Aspetta in anticamera e non avviarti con i plichi prima che io suoni di nuovo. Quando il negro si fu ritirato, mi volsi verso Monsieur de Magny e dissi: Cavaliere, il primo plico contiene una vostra lettera diretta a me in cui mi date garanzia della vostra solvibilità e mi promettete solennemente il pagamento della somma dovuta. L'accompagna un documento di mia mano, perché mi aspettavo un po' di resistenza da parte vostra, in cui si afferma che il mio onore è stato messo in dubbio, e si prega il destinatario di presentare la lettera al vostro augusto padrone, Sua Altezza. Il secondo plico è per vostro nonno, e contiene la lettera in cui vi dichiarate suo erede, e io gli chiedo conferma del fatto. L'ultimo plico, quello per Sua Altezza il duca ereditario, aggiunsi, guardandolo con occhi molto severi, contiene lo smeraldo Gustavo Adolfo, che il duca diede alla sua principessa e che voi mi avete dato in pegno come vostro gioiello di famiglia. La vostra influenza presso Sua Altezza deve essere grande davvero, conclusi, se avete potuto estorcerle un gioiello come quello. E se per pagare i vostri debiti di gioco siete riuscito a farvi affidare un segreto da cui dipendono entrambe le vostre teste. Canaglia, disse il francese, tremando d'ira e di terrore. Osereste compromettere la principessa? Monsieur de Magny, risposi con un sorriso di scherno. Certo che no. Dirò che avete rubato il gioiello. In realtà credevo che fosse andata proprio così e che quella principessa infelice e innamorata fosse venuta a sapere del furto solo molto tempo dopo che era stato commesso. Lo sfortunato giovanotto doveva proprio avere l'animo di un vigliacco. Quando lo accusai di furto, non pensò nemmeno a usare le due pistole che per caso gli stavano davanti per mandare all'altro mondo il suo accusatore e anche se stesso, visto che ormai era rovinato. Del resto, se lui e l'infelice signora che aveva dimenticato il proprio onore per questa misera canaglia avevano agito con tale imprudenza, con tale miserabile avventatezza, almeno Magny doveva aver capito che la scoperta era inevitabile. Ma era scritto che quel terribile destino, presto o tardi, si compisse. E invece di chiudere il gioco come un vero uomo, egli si piegò davanti a me, coi nervi a pezzi, e poi si gettò sul divano e scoppiò in lacrime, invocando furiosamente tutti i santi perché lo aiutassero, come se potessero interessarsi alla sorte di un pezzente come lui. Il metodo con cui Magny doveva ritirare la sua proposta lo suggerì io stesso e venne messo in atto in modo da non urtare i delicati sentimenti di entrambe le parti in causa. Seguendo le mie istruzioni, Magny prese in disparte la contessa Ida e le disse: «Signora, benché non mi sia mai dichiarato vostro ammiratore, voi e il conte vostro padre avete sufficienti prove della mia considerazione per voi. E la mia richiesta avrebbe avuto, lo so, l'appoggio di Sua Altezza, il vostro augusto tutore. So che è grazioso desiderio del duca che le mie attenzioni siano accolte favorevolmente, ma poiché il tempo non sembra essere riuscito a modificare l'affetto da voi riposto altrove, e poiché sono un uomo troppo ben accorto per costringere una signora del vostro nome e rango a unirsi a me contro la sua volontà, il piano migliore è che io vi faccia, per la forma, una proposta non autorizzata da Sua Altezza, che voi mi rispondiate come purtroppo temo che il cuore vi detti, cioè negativamente. Dopodiché anch'io ritirerò formalmente ogni mia richiesta, dichiarando che, dopo un rifiuto, nulla, neppure la volontà del duca, potrebbe indurmi a persistere nel mio tentativo». La contessa Ida quasi piangeva nel sentire queste parole di Monsieur de Magny. Lui mi disse che le lacrime le salivano agli occhi mentre gli prendeva la mano per la prima volta e lo ringraziava per la sua delicatissima proposta. Non poteva certo immaginare che il francese era del tutto incapace di quel genere di delicatezza, né che il garbo con cui aveva ritirato la sua candidatura era farina del mio sacco. Non appena si fu ritirato, fu a far mio farmi avanti. Con cautela, dolcemente, in modo da non spaventarla, però anche con fermezza, in modo da convincerla che non aveva la minima speranza di unirsi a quel suo amore scalognato, il luogotenente. La principessa Olivia fu tanto gentile da darmi appoggio eseguendo lei stessa questa parte necessaria del piano. Ammonì solennemente la contessa Ida che, anche se Monsieur de Magny aveva cessato di farle la corte, Sua Altezza, il suo tutore, l'avrebbe data in sposa soltanto a chi più gli pareva adatto, e lei doveva quindi dimenticare per sempre il suo adoratore con le pezze ai gomiti. In realtà non so ancora spiegarmi come un miserabile furfante del genere avesse mai avuto l'audacia di chiedere la sua mano. Era di nobile famiglia, certo, ma quali altre qualità aveva? Quando il cavaliere de Magny si fu ritirato, naturalmente si fece avanti una folla di altri pretendenti, e tra questi il vostro umile servitore, il rampollo del ramo cadetto dei Belli Berri. Si tenne in questo periodo un carosello, o torneo, a imitazione delle adunanze dei cavalieri antichi, in cui i contendenti giostravano tra di loro o infilavano un anello. Per l'occasione mi ero abbigliato con uno splendido costume d'antico romano, e cioè elmetto d'argento, fluente parrucca, corazza di cuoio dorato con preziosi ricami, mantello di velluto azzurro chiaro e stivaletti di marocchino. Così vestito, cavalcavo il mio baio, Brian, e infilai 3 anelli, strappando il premio a tutti i grandi della corte ducale e alla nobiltà delle nazioni limitrofe accorsa allo spettacolo. Una corona d'alloro dorato era il premio del vincitore. Doveva essergli consegnato da una dama di sua scelta. E così galoppai fino al padiglione coperto, dove la contessa Ida sedeva alle spalle della principessa ereditaria, e chiamato il suo nome a gran voce, ma con grazia, la pregai di concedermi di venire incoronato da lei. E così mi proclamai, di fronte a tutta la Germania, per così dire, suo pretendente. Notai che impallidiva bruscamente, mentre la principessa arrossiva. Ma alla fin fine la contessa Ida mi incoronò. Dopodiché spronai il cavallo e galoppai tutto intorno all'arena, salutando Sua Altezza al capo opposto ed eseguendo con il mio baio i più straordinari esercizi. Sapevo che la principessa mi odiava, ma che me ne importava? Sapeva che io sapevo tutto, anzi, il suo pregiudizio contro di me era tanto forte che mi riteneva, e ne sono certo, una canaglia senza la minima delicatezza, capace anche di compromettere una signora, cosa che invece sdegnerei di fare. Perciò, davanti a me, tremava come uno scolaretto davanti al maestro. Ma aveva anche l'abitudine, tutta femminile, di trovare mille maniere per prendermi in giro e schernirmi nei giorni di ricevimento. Mi chiedeva del mio palazzo in Irlanda, dei re miei antenati, se quando ero soldato di fanteria sotto Bulow, i miei regali parenti fossero intervenuti per portarmi in salvo, e se laggiù la sferza venisse applicata con energia, qualsiasi cosa, pur di umiliarmi. Ma grazie al cielo, sono capace di concedere attenuanti quando occorre, e mi limitavo a riderle in faccia. Mentre lei continuava con le sue frecciate e le sue beffe, io mi toglievo il gusto di osservare il povero Magni per vedere come le incassava lui. Quel povero diavolo tremava al pensiero che sotto i sarcasmi della principessa io potessi esplodere e spiattellare tutto. Ma la mia vendetta, quando la principessa mi attaccava, era di dire qualcosa di tagliente a lui, di passargliela come fanno i ragazzi a scuola. Per Sua Altezza la principessa, questo sì che toccava un nervo. Quando davo contro a Magni, fremeva come se avessi detto qualcosa di villano a lei, e benché mi odiasse, veniva poi a chiedermi scusa in privato. E benché il suo orgoglio avesse spesso la meglio su di lei, la prudenza obbligava questa maestosa principessa a umiliarsi di fronte a un ragazzo irlandese, povero in canna. Non appena Magni ebbe formalmente ritirato le sue pretese sulla contessa Ida, la principessa mostrò di nuovo il suo favore alla damigella e finse di esserle molto affezionata. Per rendere loro giustizia, non so a quale delle due piacessi meno. Alla principessa tutta ardore, fuoco, civetteria, o alla contessa tutta solennità e splendore. Quest'ultima in particolare fingeva che le dessi il disgusto. E sì che dopo tutto sono piaciuto a donne di rango anche più alto, ed ero uno degli uomini più belli d'Europa, tanto che avrei sfidato qualunque soldato della Guardia Ducale a misurare il torace o la gamba con me. Comunque non me ne importava nulla dei suoi stupidi giudizi e decisi di prendermela e tenermela, che mi volesse o no. Lo facevo a causa del suo fascino personale, delle sue qualità? No, era bianchissima, magra, miope, alta e goffa, e ai miei gusti va proprio l'opposto. Quanto alla sua intelligenza, non c'è da stupirsi che una povera creatura che smaniava per un misero sottotenente cencioso non potesse apprezzare me.